Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail. La contaminazione con il Giappone è una delle mie ossessioni più frequenti, quindi questa mattina ve la riproporrò. Sembra così infinitamente lontano il Giappone, la sua estetica, la sua storia, la sua gente, rispetto alla nostra sensibilità, ma siamo fortemente, radicalmente, profondamente contaminati di cultura giapponese. Non tanto noi, non tanto la nostra generazione, per cui il Giappone fa parte in qualche maniera della nostra storia, di ricordi e cascami legati alla guerra, probabilmente di alcune prime sollecitazioni rispetto a un fantastico che poco noi potevamo decifrare. Penso ai fantasmi post-atomici di Godzilla, che improvvisamente c'è questo risorgere di mostri preistorici attraverso le metropoli, attraverso le città. Era una rozzissima maniera di raffigurare il fantastico, però ci impressionava, non capivamo bene cosa ci fosse dietro. Dietro c'era un grande terrore, una grande paura, una uscita violentissima da una fase epica della propria storia e una sorta di grande fiammata che sembrava aver distrutto ogni illusione, ogni possibilità di allinearsi alla modernità, e poi una corsa velocissima. E poi oggi le console con cui giocano i nostri figli, i telefoni che abbiamo nelle mani, la tecnologia che riempie il nostro immaginario e fa sì che possiamo, come vasi comunicanti, scambiarci gli immaginari tra di noi. Questo è il Giappone, anche se non lo percepiamo. Il Giappone sono fine interminabili di signorine vestite come collegiali e uomini che sembrano bambini, che vanno a farsi la foto davanti alla bocca della verità, infine la mano dentro, fanno ok, e per loro è quello rappresentato, sintetizzato in una immagine tarocca, in un monumento mai esistito, in un'attribuzione da catalogo turistico. Quello è la sintesi di tutto il mondo classico, della nostra storia, della nostra essenza. Se lo mangiano, se lo divorano in una fotografia, se lo portano a casa. Cos'è il Giappone oggi? Il Giappone per i nostri ragazzi è un insieme di riferimenti fatto di cartoni animati, fatto di fumetti, fatto di immaginario, fatto di personaggi videogiochi, fatto di grafica, che noi non percepiamo bene, non capiamo bene. Prendiamo in mano quei giornalini che cominciano dall'ultima pagina e si leggono al contrario, ma loro leggono velocissimi, come velocissimi leggono dei loro coetanei, magari immersi nella metropolitana, o dei nostri coetanei, signori cinquantenni che leggono fumetti e guardano cartoni animati. Beh, oggi cercheremo di sensibilizzare, di capire ancora meglio quello che è il Giappone nella nostra contemporaneità, quanto noi abbiamo del Giappone e quanto siamo legati al Giappone. 800240024. Ed ora con l'aiuto del sole vincerò. Attacco solare! Daitan è uno dei tanti robottoni antropomorfi che abbiamo lambito anche noi ultra cinquantenni. In una fase della nostra età giovane abbiamo visto Fratelli Minori, abbiamo visto, sentito e orecchiato che veniva qualcosa di nuovo. Era semplicemente la necessità di riempiticcio delle televisioni commerciali, di mettere cartoni animati a basso costo, perché la nostra sensibilità ancora non li capiva, e quindi assimilavamo questa sorta di necessità di horror vacui delle televisioni nascenti come materiale di basso conio, di poco valore. Ma poi capimmo in realtà cosa c'era dietro: i grandi maestri c'erano dietro questi robot, e soprattutto l'immaginario e l'idea della trasformazione, della mutazione, della palingenesi attraverso, cioè la rinascita attraverso la tecnologia dell'essere umano, la modificazione degli uomini alle macchine, il passaggio tra uomo e macchina, tra umano e tecnologico, farà parte del nostro immaginario più vivace e della contemporaneità che stiamo vivendo. Allora si affacciava semplicemente attraverso cartoni animati. animati, che genitori, nonni e passatisti conservatori dicono: ah, non guardate quei brutti cartoni animati giapponesi fatti con il computer, ah, i vecchi bei cartoni animati della Disney fatti tutti a mano da veri artisti. E noi nascevamo e condizionati, venivano su i nostri nipotini e i nostri fratelli minori con l'idea che tutto ciò che nascesse dal computer fosse sbagliato, fosse disumanizzante. E guardate quanto è antitetico rispetto alla realtà. Zoe Lacquey, buongiorno. Buongiorno. Zoe Lacquey è un prodotto umanoide di questa cultura. È un'artista, disegnatrice, intrisa così profondamente di Giappone che è vestita come fosse una cosplayer. È come un personaggio di un manga, di un'anima. Chi sei? Beh, è una maglietta con un teschio. Ma diciamo che questo è l'abbigliamento che uso quando posso essere me stessa senza trasformarmi da persona normale, magari in occasioni un po' più particolari. E semplicemente sono così, sono il frutto di quello che faccio e di quello soprattutto che sogno. Ma tu sai che una sera fa Roma era piena di ragazzi e ragazze vestiti come eroi dell'immaginario fumettistico e delle anime giapponesi, e mi sono sorpreso perché mi sono reso conto che non erano ragazzi che venivano da particolari culture o da particolari punti di vista raffinati, antitetici alla norma e tutto, erano ragazzi che venivano dalle borgate. Nel loro immaginario, invece che esserci Totti, invece che esserci il quattume più deleterio, c'erano dei personaggi che nemmeno noi conoscevamo. Ma devo dire che l'immaginario giapponese offre qualcosa che per la nostra cultura è quasi un tabù, ovvero il poter preservare quella parte infantile di immaginazione e di creatività che invece purtroppo la nostra società schiaccia con attraverso magari i mezzi distorti, per me come possono essere quelli della televisione, tante volte mandano dei messaggi sbagliati, e secondo me è proprio molto importante, bisognerebbe porre molta attenzione sul fatto che proprio dei ragazzi che magari vengono da realtà più degradate invece abbiano proprio questo desiderio di esprimere loro stessi attraverso personaggi di un'immaginazione così, di un immaginario così lontano, eppure per loro così, che li fa sentire così a loro agio. E quali sono stati i canali? Tu sei stata una pioniera, un'antesignana, sei una collezionista di film, mi hai fatto vedere un film meraviglioso, Il Porco Rosso, sì, un sì. Film fatto da un grande maestro d'animazione giapponese, ambientato in Italia, il cui eroe è un aviatore italiano, ambientato negli anni del fascismo, qualcosa che è così ferocemente e poeticamente legato alla nostra storia che mi sono meravigliato quando ho visto che è un film di 18 anni fa, che nessuno ha mai pensato di importare in Italia. Di cosa si tratta? Ma come tutte le opere di Miyazaki, tra cui appunto Porco Rosso, sono forse le opere più poetiche in assoluto e che riescono comunque a manifestare sia l'immaginario classico giapponese che anche il loro modo di vedere la nostra cultura, perché comunque paradossalmente solo noi forse non riusciamo ad apprezzarla a tal punto da elevarla ai livelli di Miyazaki. Cioè, viene da pensare, ecco, che un maestro giapponese immagini Milano con i navigli in cui c'è un hangar in cui costruiscono aerei per la guerra, e possa immaginare le nostre città viste dall'alto, l'Italia in tutte le sue macchiette, nelle sue strutture, però ambientato negli anni 30. No, ma spesso Miyazaki, soprattutto per quanto riguarda le ambientazioni, sceglie ambientazioni comunque fortemente europee, quando proprio non si basa su racconti dovuti al loro immaginario, soprattutto mitologico. Quindi in questo caso Porco Rosso, come tante altre opere, tra cui anche per esempio Nausicaa, Porco Rosso non è proprio mai uscito in Italia. Noi in Italia conosciamo due o tre figli Miyazaki. Ma sì, conosciamo gli ultimi, perché giustamente... Beh, citali così almeno... Conosciamo per esempio La principessa Mononoke, molto famoso, sì. Conosciamo Il castello errante di Howl, oppure La città incantata. La città incantata è il più conosciuto, in sì, effetti. Sì, ma perché? Perché giustamente poi a un certo punto è stato grazie, tra virgolette, è stata la Disney ad acquistarne i diritti, giustamente rendendosi conto che la qualità e l'opera era veramente incredibile e spettacolare, hanno deciso di mostrarli anche agli occhi italiani. Rimane un po' una domanda assurda il perché altre opere di grande spessore di Miyazaki non siano ancora state portate qui. Nausicaa per esempio è uscito molti anni fa, ma non è stato più ristampato, e molti di noi soffrono di questo, perché sono opere che dovrebbero vedere soprattutto i bambini, perché Miyazaki ha comunque questo incredibile sguardo contemporaneamente verso il passato, verso il futuro e verso l'attuale che dovrebbero condividere sia bambini che adulti. Perché la foresta torni a coprire la montagna. Ashitaka, aiutami a sconfiggere lo spirito della foresta. Oseresti uccidere l'anima stessa della foresta? Una volta scomparso il dio della foresta, gli animali non saranno più un problema. Disboscata la foresta e scacciatene le bestie, queste terre produrranno grandi ricchezze. E Mononoke tornerà a vivere tra gli uomini. Mononoke? Sì, la ragazza lupo. Sentirei molto parlare di lei. Mononoke mi odia, vive per uccidermi. Un immaginario epico che ci appartiene, molte volte anche una lettura sottile, rarefatta, gentile della nostra storia, della nostra sensibilità. Miyazaki rappresenta a volte la Belle Époque, a volte rappresenta una sorta di Europa immaginaria, qualcosa che assomiglia alle illustrazioni delle favole di quando noi eravamo piccoli, che riscoprono i nostri figli e i ragazzi giovanissimi di oggi attraverso l'estetica e la rilettura di un giapponese. È scomparso quell'immaginario iconografico da ogni rappresentazione per ragazzi. Oggi la letteratura per l'infanzia, la grafica per l'infanzia, i film per l'infanzia vanno a colpire, a copiare e a ricalcare altri immaginari. Attraverso un giapponese riscopriamo le nostre radici, sei d'accordo? Sì, sì, assolutamente. E oltretutto trovo che sia anche molto più sano vedere, riscoprire tutto ciò attraverso gli occhi di Miyazaki, proprio perché io sono una di quelle persone che è cresciuta con l'incubo di questi cartoni animati giapponesi, mi avrebbero tirata su in modo deviante, sarei sicuramente stata una disadattata o cose simili, mentre ero veramente stanca di essere piazzata davanti a quel buonismo bidimensionale tipicamente Disney, mentre attraverso Miyazaki si può imparare che non c'è buono o cattivo, ci sono diverse motivazioni. Io penso che è diventato buono anche Gamba di Legno, sono buoni la Banda Bassotti, è inguardabile oggi quello che è il mondo Disney, di cui abbiamo vividi ricordi nella Principessa Cattiva di Biancaneve. Oggi è impossibile, è una sorta di zuccherino inesistente. No, ma sono diventati proprio inadatti ai bambini, semplicemente, perché non rispecchiano più quelli che sono i caratteri reali. Cioè, a un bambino bisogna insegnare che il bene e il male non sono assoluti, esistono anche delle sfumature. Sabrina Perucca, buongiorno. Buongiorno. Sei responsabile di Romix. Dimmi cosa sta succedendo, per dare anche delle cifre rispetto al fenomeno, sennò sembra che io sto vaneggiando e seguendo i miei particolari deliri. No, non stai assolutamente vaneggiando, anzi, se date un'occhiatina qui vicino, più vicino, troverete veramente una quantità di colori e di persone vestite in cosplay, quindi assolutamente non sì, io ricordo l'anno scorso, ricordo capitai per caso e trovai centinaia di ragazze vestite leopardate, guerrieri con spade enormi. Sì. Mi trovai improvvisamente come se fosse aperta lo Stargate, la porta fra il mondo dell'immaginario, della fantasia giapponese e la periferia romana. Improvvisamente ho visto questo mare di esercito di guerrieri, di principesse, di mostri. E si ripete quest'anno? Assolutamente sì, guarda, io devo dire la verità, ormai sono un po' abituata, no? Quindi dopo 10 anni di Romix, ma in realtà mi rendo conto che facendo un passettino indietro, che proprio come dici tu, è come se si apre la porta del fumetto ed escono tutti fuori, tutti insieme. Mi dai qualche numero per capire quanta gente si traveste? Allora, noi abbiamo un pubblico totale di 70.000 persone, di cui ti dico almeno un terzo si veste comunque da cosplay. Noi abbiamo una, ovviamente sembrano molti di più, sembrano tutti perché il colpo d'occhio è talmente grande, no? Tieni conto che noi abbiamo anche la domenica una gara in cui il premio è proprio essere diciamo selezionati come nazionale italiana per andare a fare la gara in Giappone, il sogno della vita, no? E quindi tanti si vestono per poi gareggiare, ma altrettanti, ma anche di più, si vestono semplicemente per girare qui in fiera, per farsi le foto, per incontrare gli amici e si portano i loro personaggi preferiti. E questo è... Ecco, tu hai detto una cosa che mi ha colpito. Ogni generazione al suo luogo dell'immaginario eletto. La mia generazione andavano a Londra perché c'era un certo tipo di musica, sì. C'era un certo... Poi andando avanti c'è stata la California, poi c'è stata la Patagonia, poi c'è stato il Sud America. In questo momento l'età media dai 14 ai 20 anni sogna il Giappone. Io ho un figlio che mi ha pregato di iscriverlo a un corso di lingua giapponese, che mi sembra, dico, ma sei pazzo? Ha fatto salti mortali e l'ho iscritto a un corso di lingua giapponese, perché pare che oggi sia il luogo dell'immaginario che più viene sognato da questi ragazzi. Assolutamente, ma ti dirò, ma non si ferma a 20 anni, nel senso che anche chi poi ha i 30 o i 35 che ho io, fino anche un pochino di più, c'è ancora questa voglia, perché comunque noi siamo, io dico sempre, io sono la figlia, no, di Goldrake, la figlia di Mazinga, la prima generazione raggiunta poi negli anni 70, ma poi questo modo di comunicare, di arrivare proprio nell'immaginario è arrivato e tornato ad esempio con Dragon Ball, che ha preso tutta un'altra generazione, quelli che sono adesso ventenni, è arrivato con altri personaggi, con Sam Dunk, con i Pokémon, che ha preso i bambini e che poi hanno cominciato a scartabellare i manga. E ti dirò, sta arrivando sempre di più anche questo legame con il videogioco. Anche il videogioco è cambiato tanto. Il videogioco, ne parlavamo giorni fa, è il leader del mercato dell'immaginario. È bello che gli indicatori, gli osservatori, i sociologi, gli attenti analizzatori della nostra società fanno finta che non esista questo fenomeno. Ancora ci si ferma a parlare del Grande Fratello, della televisione italiana o dei fenomeni trasversali che in realtà non toccano, non intaccano e sono totalmente superficiali rispetto a questa realtà. Sentiamo qualche ascoltatore, poi risponderete voi ospiti. Marco da Cremona, buongiorno. Buongiorno. Io con il Giappone ho un rapporto diretto dovuto anche a questioni matrimoniali, mia moglie è giapponese. Si è sposato una giapponese? Sì, da 7 anni. E, ma perché era appassionato di manga, di anime? No, perché semplicemente forse c'è stata una maggiore compatibilità con lei che neanche con gli italiani, vabbè, ma questo è un altro discorso, penso. Comunque, la cosa impressionante è la tremenda evoluzione che hanno avuto andando spesso in Giappone, almeno 2 o 3 volte all'anno, e soprattutto con una persona giapponese di Tokyo proprio. La tremenda evoluzione che hanno avuto negli ultimi anni i manga, i fumetti giapponesi, cioè oltre a questi department store dove ci sono decine di migliaia di manga diversi che affrontano qualsiasi argomento dello scibile umano, dal rapporto adolescenziale tra i ragazzi fino al rapporto d'onore tra i vari samurai, insomma c'è di tutto. Rimangono, ho 40 anni, quasi 40 anni praticamente, per cui io sono una della generazione, tra virgolette, giusta per quei fumetti. Rimangono alcuni punti fermi dei vecchi fumetti giapponesi come Gundam e Lupin III, che sono una sorta di, sono eteri, sono diventati qualcosa che vanno oltre al concetto del... Sì, ma ho capito che non è un'evoluzione casuale, ci sono delle linee di pensiero che poi via via si moltiplicano attraverso delle innovazioni grafiche, delle storie trasversali, ma è sintetizzabile in un pensiero, un'idea, forse è questa la differenza. C'è un pensiero articolato e organico che poi si diffonde attraverso varie forme artistiche, espressive. Da noi non esiste più un pensiero organico, da noi c'è una frammentazione totale, per questo colonizzano l'immaginario, ma io sono contento che accada. Chiudiamo Federico da Mantova, poi diamo la linea alla borsa. Federico. Sì, buongiorno. Io ho la fortuna di abitare in Giappone per 6 mesi l'anno e il mio appartamento si affaccia su una piazza dove ogni domenica è pazzesco, perché ci sono migliaia di persone che si scambiano praticamente i manga trasformati in pupazzi. E ci sono delle scene pazzesche, cioè delle persone che hanno 50-60 anni che litigano con dei ragazzini per portarsi via questi pupazzetti, Munni, Dunni, Yamataki, ha delle cifre folli, 700-800 equivalenti in euro. Ma si vedono delle code, ma dalle 6 di mattina, che sono tutti lì per... Forse lei ci dà una chiave però di questo immaginario, perché si sta sovrapponendo al nostro. Noi guardando intorno vediamo soltanto gente incazzata, gente in grisaglia, gente puzzolente, politici livorosi, gente che si appassiona a problemi che in realtà sono inesistenti. Loro hanno seminato una sorta di eterna giovinezza, possa di rimanere bambini anche da anziani, mettendosi il corpo di un pupazzone e scambiando i fumetti con i ragazzini. Quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. forse magari se facciamo sentire la musichetta di Sailor Moon è più vicina a una percezione consapevole di madri, padri, figli e via dicendo. Oggi stiamo affrontando il problema dell'immaginario, della sensibilità giapponese che è filtrata, è passata come una sorta di lenta osmosi anche nella nostra cultura, nella nostra civilizzazione. Difficilmente se ne hanno segni ufficiali, tutti fingono che ciò non sia accaduto, che non sia così, che siamo fortemente legati alle nostre radici, ma se oggi i nostri ragazzi sanno qualcosa delle nostre radici è perché sono state filtrate, passate, riprodotte come se fossero monaci amanuensi da artisti giapponesi. Ho in studio con me Zoe Lacchei, che è un'artista e disegnatrice, esperta e profonda conoscitrice, anzi totalmente trasfigurata nell'estetica giapponese. Su Sailor Moon cosa puoi dirmi, tanto per documentare le persone che ci ascoltano? Ma Sailor Moon fa parte di quell'immaginario legato alle maghette. Cioè, quando ero più piccola io magari c'erano personaggi come Crimi, Magica Emi, ma Sailor Moon ha sostituito in questa nuova versione ancora più colorata e psichedelica quelle che erano le prime icone che sono arrivate da noi, perché per il pubblico maschile c'erano più i robottoni, Fairy Mazinga, Goldrick, mentre per le bambine, Sailor Moon, sì. Mentre per le bambine, quando ero piccola io, c'erano appunto queste, al di là delle varie candy che facevano proprio storie a sé. Se oggi sono le fatine zoccole, il Winx, queste cose qua, che è un'altra cosa. Secondo me, folle, io, che come al solito sono sempre il prodotto comunque dell'Occidente, ricordiamolo, perché altra parte... No, gli italiani vanno fieri di aver inventato queste tre maghette che compra tutto il mondo, qualcosa... Ma d'altra parte devo dire che sono... Le Winx sono proprio il prodotto... Ah, sono sei, mi dicono. Infatti. Per me, sì, vabbè, non è che il modello sia molto differenziato. Però. No, io sono un po' sconcertata da questi personaggi femminili molto scollacciati, tra cui anche le Bratz. Purtroppo devo dire che invece l'innocenza che c'è dietro le gonnelline giapponesi... Allora, Bratz è l'antitesi troia di Barbie. Sì, tipo wrestler. Vabbè, sì. Però io su questo non mi scandalizzo, dico onestamente. No, ma più che ogni altro... fattispecie ha diritto alla sua rappresentazione. È un archetipo anche quello, giusto? Sì, ma anche piacevole, dico. No, ma la cosa che magari è più peculiare, appunto, è che viene spesso, il Giappone viene additato di essere profondamente maschilista, anche addirittura attraverso delle stroppiature di quelle che sono le figure femminili che fanno parte della loro storia, tra cui le geisha, che molto spesso in Occidente vengono confuse per prostitute. In realtà sono la più alta forma d'arte femminile mai avuta, e anche nelle loro figure femminili degli anime, dei cartoni animati, tutto quanto, loro comunque riproducono delle creature che sono, sì, magari anche affascinate e tutto quanto, ma rimangono comunque molto pure, mentre non c'è quella ostentazione, quella forzata voglia di crescere che io vedo in tanti prodotti occidentali. Sì, guarda, oggi, per dire, la volgarizzazione di questa terminologia, se tu senti la media signora coatta romana, quando vuole attribuirsi arti amatorie o facoltà seduttive, dice io so geisha. Sì, l'ho sentito dire migliaia di volte, migliaia, per dire io sono troia, ma non c'entra nulla. Non è assolutamente, assolutamente. Le geisha sono delle professioniste delle più alte arti giapponesi, tra cui l'arte della musica, della danza, l'arte della conversazione. Incredibile pensare che c'è un popolo che trova che anche la conversazione sia un'arte. E io per far capire è anche un mestiere per qualcuno, uno sporco mestiere per alcuni, sì, magari fatto con molta meno grazia, però questo sia detto. Sì, sì, questo lo confesso. Senti, possiamo a questo punto portare una testimonianza diretta, che noi parliamo di una fattispecie che sembra quasi sia inesistente. Vorrei invitare a esprimere il suo parere la signora Keiko Ikiguchi, che è una famosissima disegnatrice giapponese che vive in Italia da anni. Signora, buongiorno. Buongiorno. Lei ci ha ascoltato con grande pazienza tipica fino adesso, perché volevo che si facesse un'idea della mia lettura sicuramente distorta, ma anche della facilità con cui in realtà una volta suscitato il problema del rapporto fra immaginario europeo, italiano se vogliamo, immaginario giapponese, che in realtà c'è una rispondenza concreta. Ecco, lei da quanti anni sta in Italia? Quasi 17-18 anni, quindi tanti anni ormai sono qua. Sì, scusa, cos'è? No, non si emozioni, sta tranquilla. La mia ignoranza è abissale, che lei è una disegnatrice molto rinomata, molto famosa. No, sono solo un'armettista normale giapponese. E adesso non lavoro neanche per il Giappone, lavoro per Italia, lavoro per Belgio. Sono abbastanza italianizzata da quel punto di vista. Ma lei si è mai chiesta o si è data qualche risposta sul perché di questa fantasioso innamoramento fra le nuove generazioni di ragazzi, adolescenti italiani e la cultura giapponese, che sembrava così distante da quelle che erano le nostre radici dell'immaginario? Ma molti mi hanno chiesto, molti mi hanno chiesto che cosa penso su questo fenomeno, perché tanti giovani italiani adesso amano cartoni animati giapponesi, fumetti giapponesi. Sinceramente non capisco neanche io, proprio non capisco neanche io. Sono molto grata per la passione di queste persone che amano prodotti giapponesi, però veramente forse nessun giapponese capisce perché. Cioè i giapponesi non se lo spiegano, questa è una cosa interessante. Nemmeno io me lo spiego vedendo una forma sicuramente superficiale di idea del Giappone, i turisti giapponesi quando empiono le nostre città. Guardano e passano attraverso quelle che noi consideriamo le sacre vestigia della nostra storia, con la leggerezza e la curiosità di un bambino che passa a Disneyland, con la stessa maniera. Dicevo prima, per loro la bocca della verità equivale al Colosseo, equivale al Bernini. È come un grande circo quello che guardano, e sembrano così distanti, così lontani. Poi vado a casa e vedo i miei ragazzi che ne sono rapiti e leggono gli stessi libri, guardano gli stessi fumetti, vorrebbero mettersi gli stessi vestiti. Io non me lo spiego, nemmeno lei quindi si è data una spiegazione. No, sinceramente no. Per ora, per esempio, magari pochi italiani sanno che Calimero, il vostro personaggio famoso, è amatissimo anche in Giappone. Quando ero piccola c'era, io guardavo sempre il cartone animato. Come si chiamava Calimero? Calimero. Ah, Calimero anche. Sì, sì, sì. E poi c'era anche ma diceva va come lava l'olandesina, c'era uguale, no? No, quello non c'era, quella pubblicità non esisteva, però c'era un proprio programma, cartoni animati per i bambini. Quindi la generazione della mia età, tutti sanno cos'è Calimero, magari senza sapere che è italiano. Somiglia a un Pokémon, però potrebbe essere un Pokémon Calimero. È vero. Ma quando l'ho visto Pokémon, proprio quel pupazzone di Pokémon in centro di Milano, sono stata scioccata. Sembrava una invasione da Giappone. Sì, ma se lei viene a Roma questi giorni, guardi, le prende un coccolone, perché è esattamente quello che descriveva un ascoltatore poco fa, che accade la domenica nelle piazze giapponesi, sta accadendo dalle parti di Fiumicino. Valanghe di esseri umani travestiti e immedesimati con grandi costumi di gomma piuma, sì, nei personaggi più singolari dell'estetica giapponese. Ma anche quello, cioè, ormai da anni che esiste in Italia questo fenomeno, e infatti mi ha colpito molto all'inizio, perché comunque sia un tipo di gioco, un tipo di divertimento, è nato in Giappone più di 20 anni fa. Sentiamo Lorenzo, da provincia La Spezia. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Niente, ascoltando il programma mi è venuto a chiedermi una cosa. Dunque, il Giappone è stato oggetto di una dittatura militare di 4 secoli. In quest'ultimo secolo ha subito un'accelerazione verso la modernizzazione, sempre fortemente gerarchizzata. Ora, non è che questa affezione nei confronti del mondo infantile, diciamo, anche se così dai loro occhi non è, dei cartoni animati, è da ricercare in una disperata ricerca di uno spazio da ritagliarsi al di fuori di questo spazio allenante industrializzato che è oggi. Cioè, cerchiamo di capire bene, cioè, per lei dice, come nel Giappone, di cui conosciamo i meccanismi stritolanti del mondo del lavoro, dell'etica professionale, del codice impiegatizio e via dicendo, la loro via di fuga è questa qua dell'immaginario. Non è che anche noi cerchiamo via di fuga. Io amo e auspico tutte le fessure possibili nel mondo concreto, quindi se una via di fuga non la vedo come un limite, anzi la vedo come una grande chance da questo punto di vista. Non le so rispondere, probabilmente sì, anzi sono di sicuro di sì, e ancor meglio, ben vengano le vie di fuga dalla realtà. Non è detto che il mondo concreto sia l'unica maniera in cui noi possiamo esprimere la nostra felicità. Va vissuto nella sua concretezza, va compreso, va immaginato, va elaborato, ma chi presenta Via di Fuga deve essere benedetto, non deve essere considerato come le nostre nonne. Non guardare quei terribili cartoni animati, non leggere quei libri d'avventura, non guardare quei brutti programmi in televisione e non giocare con i terribili videogiochi. Io mi sento ancora dire a casa, stai sempre davanti al computer, torna alla realtà. Ma la mia realtà è anche quella. A tra un istante, dopo le informazioni del traffico. Quando on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Ecco, le presento Pierugo. Molto lieto, il mio Pierugo. Cagnolino adorato. Ah. Io senza di lui non posso vivere. Lo capisco. Lui senza di me non cena. Certo. Per questo l'ho dovuto portare. Certo. Dai, ho sapete ragionare. Piacere, Fantozzi. E poi è pechinese, coi giapponesi siamo lì. Si andiamo, ritorno. Signorina. Ci pensa lei dare qualcosa da mangiare a questo piccolo cane? Buongiorno. Questo can, dog, mangia. Fame. Fame. Cucina. Mangia. Tu cucina. Ande. Comprende. What is this? Cosa è questo? Ah, finalmente un po' d'arrosto. Era ora. Cosa? Pierugo! Ma non... Lei è un assassino. Questa è in assoluto la sintesi più felice della mediazione coatta, volgare, impiegatizia, ottusa della sensibilità giapponese. Fantozzi per fare colpo con la signorina Silvani, con il vestito nuovo autostringente, va al ristorante giapponese, lei si veste in una sorta di organizzazione imparaticcia, mette una parrucca, dice sayonara, si porta dietro il barboncino Pierugo e naturalmente lo consegna al cameriere e dice lo porti a mangiare, il cameriere capisce lo voglio mangiare, glielo cucinano arrosto, non ci vedono nulla di strano. Improvvisamente, ecco, lo scontro fra le civiltà, le sensibilità si scontra in questo pregiudizio, sono barbari perché si mangiano i cani, una cosa sempre detta dai giapponesi, capito? Noi che i cani li idolatriamo, li teniamo al rango di qualcosa di più dei figli, che ogni giorno permettiamo che l'ordino le città perché la loro pupù è benedetta come quella dei neonati, e guai a dire il contrario perché poi ti vengono sotto casa con i forconi gli animalisti. Questo vedevamo del Giappone. Aldo da Udine, buongiorno. Buongiorno, grazie. Io penso che ci sia una grande confusione globalizzata in merito. Ci siamo dimenticati che ognuno di noi ha qualcosa del bambino. Forse i giapponesi non se ne vergognano a fare un'esternalizzazione. Ricordiamoci quello che ha scritto il Verga nel suo libro La Caruccia, quando alla fine l'avvocato chiude la porta, prende la sua cagnetta, la alza delle zampine dietro e torna ad essere bambino e gli fa fare la caruccia. Forse noi abbiamo questa vergogna. Che sarebbe la cariola, che ancora è un uso familiare e coniugale abbastanza. Esatto, che si fa. Quindi noi abbiamo paura di esternalizzare cinquantenni, quarantenni, che abbiamo visto i primi cartoni animati giapponesi, esternalizzare veramente che c'è qualcosa di bambino dentro di noi. E sì. Forse il nascondersi, come ha detto lei, o forse ho interpretato male io, a Roma, dietro le piazze, eccetera, di mettersi. Forse loro non hanno i nostri pregiudizi, o noi non riusciamo a capire la loro cultura. Sì, no, vero, sa, noi siamo nostra, una no? popolazione molto involgarita, che apparentemente è spudorata, ma ancora invece ammanicata del pudore più inarrestabile. Essere spudorati significa non vergognarsi di avere ancora desiderio, voglia, immaginario e freschezza da ragazzini. L'accusa di essere infantilista, sei immaturo, me lo sento dire da quando ho 50 anni che sono immaturo, e spero che me lo diranno anche fino al momento estremo, voglio essere mai maturo. Quindi secondo me ha ragione, questa è una sua giusta lettura. Angela. Buongiorno Nicoletti, buongiorno a tutti. Mentre mio figlio quindicenne collezionava manga e io non capivo, attraverso un'arte marziale cinese ho scoperto invece l'aikido. L'aikido, da lì tutte quelle letture relative al Giappone, relative a questo mondo. Per sì, come ogni arte marziale giapponese, poi l'origine naturalmente è nella Cina, però l'aikido è una arte marziale molto legata anche all'aspetto spirituale, al controllo interiore, non è proprio banale. Assolutamente, e da lì poi approfondire tutte quelle che sono le loro discipline, dalla scrittura al linguaggio a tutto quello che fa parte di questo mondo. E da lì poi mi ritrovo a pensare a questo rigore, a questa semplicità, a questa loro leggerezza, a questa comunque profondità che ha talmente una diversità dal nostro mondo pieno di ortelli, pieno di fronzoli. Ha detto una cosa giusta, sa, una volta io feci una trasmissione sulla leggerezza, lo sa qual è il mio più grande sogno? Io confesso sempre che sono felicemente, senilmente spudorato, avere una casa vuota. Io sono oppresso dalle case piene di cose, piene di vestite, piene di libri, piene di mobili, piene di oggetti. Mi comincia a pesare proprio a livello olfattivo l'odore degli oggetti attorno. Vorrei una casa vuota, con un piccolo odore di sottofondo, ma totalmente vuota. Sogno infatti le case giapponesi. Spero prima di morire di avere una casa vuota in cui poter vivere, senza niente, con il minimo indispensabile. Soltanto una protesi emotiva che mi metta in comunicazione col mondo e un tatami per terra. Finalmente ti sei fatto vivo, Ken. Ero molto ansioso di rivedere. Finalmente ti sei fatto vivo, Ken. Ero molto ansioso di rivedere la tua faccia, fratello. Te lo ripeto ancora una volta. Decidi il posto dove vuoi andare a morire. Questa volta non hai scampo. È arrivata la tua ora. Uccidendoti salverò migliaia di persone innocenti. Io sono cambiato. Zoe Lackey, artista e disegnatrice, le cui opere me le sto guardando adesso nel suo sito internet zoelackey.com, interpreta con occhi occidentali quella che è l'estetica giapponese. Sono donne drago, donne molte volte insertate anche con la tecnologia, fa parte molto della nostra contemporaneità, ma per raffigurare lo spirito che serpeggia nell'immaginario di ognuno di noi si è dovuto andare a prendere delle metodologie e dei sistemi espressivi tipici del Giappone. Sì, perché il Giappone comunque ti fornisce quella perfetta, quel perfetto equilibrio, quella perfetta commistione tra bellezza e rigore, tradizione e femminilità. Comunque sia, le donne giapponesi che spesso rappresento sono proprio la massima espressione della femminilità, in quanto proprio così eteree, così incredibilmente. Pensa al paradosso: il modello di femminilità occidentale, ormai accreditato, ormai passato a tutti i livelli, attraverso tutte le culture, dalle cosiddette culture alte, raffinate, elitarie, le culture popolari, è quello della donna comunque tecnologicamente mutata, perché la coatta siliconata fino all'attrice, fino alla scrittrice, fino anche alla signora impegnata politicamente, che comunque non esita a mutare tecnologicamente il proprio corpo. Nell'estetica giapponese esiste il paradosso della donna che diventa tante cose, che proviene dagli animali, che è un animale, che è una pianta, che è un oggetto, che è qualcosa, che però è mai accaduto di vedere a me una donna giapponese rifatta. Ma invece purtroppo questo è un trend che sta venendo dall'Occidente, che i giapponesi stanno tristemente assimilando, cioè quello di perdere addirittura i loro tratti somatici, tra cui per esempio le famose palpebre, e farsele ricostruire all'occidentale. Soprattutto in Cina sta succedendo, perché pare che siano più vincenti le persone che hanno uno sguardo più vicino, gli occhi più grandi, quindi più vicini. Com'erano gli occhi dei primi fumetti manga? Ma sì, però il punto è che il problema è che trovo un tale fremito invece sotto quegli occhi velati, quasi socchiusi, tipici del taglio giapponese, del taglio orientale, che secondo me un occhio, cioè gli enormi occhi giapponesi di manga sono soltanto un motivo di grande espressività, riescono attraverso piccoli pallini di luce a far cambiare lo spirito di quel personaggio in quel preciso momento, ma io trovo che la bellezza orientale sia stupenda. Grazie Zoe Lackey, presa alla descrizione dell'occhio giapponese, ma in fondo nelle contaminazioni culturali qualcosa si prende, anche qualcosa si dà. Grazie Alessandro Chiappini, grazie Gloria Guerrera, grazie a Zoe Lackey, ci sentiamo lunedì. Melog 2.0. Alors tous deux on est partis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.